Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di innovazione, parliamo di nuove imprese, parliamo di tecnologia, parliamo delle possibilità che questa new economy, come si diceva forse una volta nel passato, adesso si dice in qualche altro modo, lo scopriremo come, ecco, con queste nuove realtà tecnologiche possono influenzare la nostra vita, ma soprattutto la vita dei nostri figli. Parleremo di un libro che si chiama Fondatori ed è scritto, anzi curato, da Luca De Biase e Luca Tremolada, che saluto. Buonasera Luca De Biase. Buonasera a tutti. E buonasera Luca Tremolada. Lo sapevo che scattava il Cremolada. Tremolada. Ne parlavamo da tempo su questo Cremolada e Tremolada, siccome l'aereo è quella che è andata vabbè. Così. Comunque Luca Tremolada è anche un abitué, ha avuto per qualche mese un programma un anno, Radio 24, per un anno Radio 24, quindi qualche nostro ascoltatore forse ricorderà la sua voce. Entrambi sono giornalisti al Sole 24 Ore. Luca De Biase è responsabile di Nova, che è il supplemento che esce la domenica. Alla domenica e ogni tanto il mercoledì quando abbiamo troppo da scrivere. Anche il mercoledì questa innovazione è responsabile di Nova, è uno dei più autorevoli giornalisti che si occupano di tecnologia in Italia e altrettanto si può dire di Luca Tremolada che anch'esso è nella redazione di Nova ed è responsabile di cosa adesso Luca? L'online. E l'online. Quindi, allora questo libro ha come titolo Fondatori. Fondatori che cosa vuol dire Luca De Biase? Vuol dire innanzitutto che è rivolto a chi fonda un'azienda e a chi vorrebbe fondarla e ai cittadini che sono interessati a capire se la fondazione di nuove aziende è effettivamente una via della crescita, dell'innovazione, dell'occupazione in Italia. I fondatori sono questi che fanno nascere nuove imprese innovative. La startup è un concetto che negli ultimi tempi è stato molto ripetuto, si è attribuita fin troppa capacità generativa al concetto di startup. Quello che noi abbiamo cercato di far vedere è che si tratta in realtà di un ecosistema nel quale la startup ne è una componente fondamentale perché nuova da molti punti di vista. Sono aziende che non hanno un prodotto, forse non hanno un mercato quasi certamente, che per 4 anni cercano di costruire un prototipo, di verificare se gli utenti lo potranno utilizzare, di scoprire come finanziarlo e poi hanno un destino che può essere, se non ha funzionato, di chiusura oppure di azienda che vive in proprio oppure essere andare in borsa o certo, essere comprati da una grande azienda. Quindi occorre un ecosistema perché tutto questo non può vivere, no, startup non vive da sola, vive all'interno di un ecosistema, finanziamenti, grande impresa, eccetera. Ecco, una startup ovviamente deve partire, ma per partire poi deve fare anche un percorso e quindi per fare questo percorso è necessario che ci sia una struttura intorno che possa accogliere la startup con tutto quello che appunto Luca De Biase diceva, ma la startup è resa possibile, qui chiedo a Luca Tremolada, è resa possibile dal fatto che entrare nel business attualmente grazie alle nuove tecnologie costa molto meno che in passato, non ci sono bisogno di grandi strutture, di grandi impianti, di grandi strutture fisiche proprio, i torni, le presse, per fare delle cose con le nuove tecnologie basta poco. Sì, c'è da dire che la barriera tecnologica è più bassa, di fatto costa meno provare a buttarsi su internet, aprire un sito, lanciare un servizio di analytics, però va anche detto che la concorrenza è ugualmente molto molto più alta, per cui se è vero che nella quella che tu giustamente ricordavi, la new economy, insomma quello che poi è successo dopo la new economy, direi è più interessante buttarsi nell'acquario di internet, però ci sono dei grandi pesce cani, ci sono dei soggetti giganteschi come Google e Facebook su cui è complicatissimo competere. Però anche loro sono state a loro tempo, ma non molti anni fa, delle start-up. Sono state delle start-up che adesso fanno un sacco di soldi. Devo dire che sono dei pesci cani che si sono un po' mangiati tutto, perché è una cosa che dice Kevin Kelly, che è un grande guru della rete, in questo momento sul web ci sono dei grandi gruppi che hanno vinto tutto e per le start-up il mestiere forse non è tanto quello di competere con loro, ma di inventarsi delle nuove nicchie, e su questo il web permette di vincere tante sfide. Ecco, forse una delle caratteristiche del web, della nuova realtà, è proprio che i confini non ci sono più. Si può sempre pensare che si può fare un'innovazione, che si può sempre fare qualcosa di più, che non siamo arrivati poi al punto. Non è mai stato vero nella storia, ma è ancora meno vero adesso, Luca De Biasi. Guarda, quello che abbiamo detto fino adesso fa credere che stiamo parlando di startup internet, quando in realtà il punto è più ampio. Questo libro, Fondatori, in realtà dà voce a un insieme di fondatori ed esperti di startup in Italia, che danno conto di un'evoluzione. Dal 2012 a oggi questo concetto è andato molto avanti. Ci siamo resi conto, per esempio, che il mondo delle startup italiano dovrà avere una sua specificità connessa alle caratteristiche del sistema italiano, per cui più che essere concentrato sul nuovo software per internet e cose del genere, sarà necessariamente destinato ad evolvere per servire l'innovazione della grande impresa tradizionalmente forte in Italia, quindi anche imprese che fanno oggetti dotati di innovazione, che vanno nella filiera dell'agroalimentare, nella filiera dell'abbigliamento, dell'arredamento, nelle macchine industriali, in tutto quello che porta avanti il sistema italiano. Quindi l'evoluzione del concetto è in pieno svolgimento e, come dicevi giustamente tu, i confini sono totalmente labili. Ecco, quindi Luca Tremolada, di startup in Italia ce ne sono, ce ne possono essere ancora, questo libro può dare speranza ai giovani che hanno qualche possibilità, anche appunto perché hanno compiuto certi studi tecnologici, di entrare in questo sistema? Allora, innanzitutto due numeri, sono del 2014, sono 2600. Per cui, esatto, per cui insomma se contiamo che la figura della startup giuridica è stata introdotta, come diceva giustamente Luca, due anni fa, è stata una bella accelerata. Di queste chiaramente non tutte sono vive vegete, molte sono degli zombie, alcune fanno fatica, però il fenomeno necessariamente sta crescendo e di spazio ce n'è, però non tanto, e qui ritorno un po' a bomba, per competere con Google, ma come si diceva prima, forse per dare una mano all'industria tradizionale italiana, che in questo momento non sta innovando. Allora, uno dei messaggi, ce ne sono tantissimi in questo libro, ma uno dei messaggi contenuti è proprio quello: signori, se fate fatica a innovare, imprenditori, mobilifici, insomma tutto il tessuto imprenditoriale italiano, che in questo momento non sa dove sbattere la testa, ecco, provate a guardare anche alla realtà delle start-up, perché questi sono ragazzi che fanno impresa e che hanno competenze che forse le aziende tradizionali non hanno in pancia. Ecco, in Italia si è fatto qualcosa per aiutare queste start-up a nascere e a crescere, Luca De Biasi? C'è un quadro normativo, ci sono agevolazioni finanziarie, ci sono agevolazioni fiscali, si potrebbe fare ovviamente di più. Si può fare di più, ma guarda che questo decreto del 2012, nato con un lavoro che ha coinvolto tutto l'ecosistema, con una task force, con audizioni, con incontri che hanno raccolto migliaia di persone a dare un contributo, quindi per tutto il 2012 si è fatto una raccolta di idee. Alla fine del 2012 è uscito il decreto. Per tutto il 2013 e il 14 il MISE ha realizzato i decreti attuativi, quindi si è creata un concetto giuridico nuovo, che è quello della startup innovativa, e si è creato uno spazio di semplificazione fiscale e burocratica per queste startup, che oggettivamente sta funzionando, almeno per coloro che conoscono questa innovazione, e sono ancora meno di quello che è necessario. Le ultimissime novità sono che alcune di queste agevolazioni sono state estese, con certi limiti, a PMI innovative, che quindi hanno caratteristiche di innovazione definite simili a quelle delle start-up, ma che hanno una storia più lunga di 4 anni. È chiaro che questa normativa non genera da sola il fenomeno, ma è una normativa abilitante che lo favorisce. I numeri di aziende che hanno colto l'occasione lo testimoniano. Ecco, quindi Luca Tremolada, questo libro Fondatori, edito da Repli, lo ricordo, può essere considerato un po' un manuale, istruzioni per l'uso, si parla di strategie, si parla di mentalità, si parla anche di errori da evitare nell'ambito di questa realtà. È veramente un manuale che, diciamo così, va usato per chi vuole iniziare o per chi vuole muoversi in questa realtà. Ma un manuale bella come fa, a me piace il manuale. Diciamo che ci sono tante cose lì dentro e ci sono soprattutto, non l'abbiamo detto, tante voci, perché il grosso del lavoro è stato quello di permettere a tutti gli attori principali dell'ecosistema di parlare. Per cui, insomma, sarebbe bello se a distanza di 5 anni questo libro qua dice: beh, però l'avevano detto, cioè ci avevano detto cosa sarebbe successo, avevano un tweet o 2 o 3 cose. Per cui sicuramente per oggi è un manuale, per il futuro può essere una pietra miliare per dire: guardate come sono diventate queste startup. L'ho detta grossa? No, beh, indubbiamente, magari miliare, effettivamente è un po' grossa. Potremmo trovarci tra un paio d'anni per vedere la seconda edizione di questo libro, che comunque andrà aggiornato, direi quasi quotidianamente, attraverso il web, attraverso Nova 24. Che cosa si prevede per i prossimi mesi su Nova 24? Rapidamente. Nova 24 è la piattaforma degli innovatori, anche lei fa parlare coloro che sono in grado di raccontarci il futuro attraverso le loro azioni e la loro visione. Quindi cominciare con i fondatori, fondando le fondamenta, sono importanti per costruire certe realtà. Queste realtà, possiamo pensare che anche l'Italia, Luca Tremolada, per concludere, possa avere un ruolo da giocare in questa realtà. Ma diciamo che si parla un po' meno di startup, cioè nel senso che poi paradossalmente adesso forse c'è il momento di consolidamento, prima era molto di moda, adesso da parte del governo stanno lavorando benissimo, però insomma viene un po' meno usata politicamente la parola startup. Vediamo perché, vediamo, noi seguiamo tutto, per cui... Noi siamo sempre una startup che deve continuare a inventarsi giorno per giorno. Per fortuna la realtà è abbastanza varia da darci degli argomenti. Grazie a Luca De Biase, grazie a Luca Tremolada, giornalisti del Sole 24 Ore, che hanno scritto e curato il libro che si chiama Fondatori, edito da Oepli. Sono 160 pagine per 18 euro, un manuale, come abbiamo detto, per capire le startup, le opportunità per le imprese, per il paese, per ogni persona che voglia interessarsi del futuro, in fondo il futuro è quello che noi riusciremo a costruire. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Peter Bescapè in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.